vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.42, tramonterà alle 16.56. Giovedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Le novità in campo di normative e burocrazia per il settore agricolo che ci attendono nel 2024. Il Purcì di Sant'Antonio, il maiale di Sant'Antonio, una presenza nel mondo contadino di una volta con tanti rimandi alla vita e valori della comunità. Seconda puntata sui grani antichi e le loro proprietà nutritive tra verità e fake news. Picolitta e Ramandoli, campioni dei vini passiti in Friuli Venezia Giulia. Istruzioni per l'uso per la miglior conservazione casalinga del salame. Le novità in fatto di substrati, alias terricci, per la coltivazione moderna di ciclamini e stelle di Natale. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Inizio anno continua, o meglio riprende, l'iter di molti passaggi burocratici anche nel mondo dell'agricoltura. Ne parliamo con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Grandi novità sul versante dell'organismo pagatore. Sì, infatti a partire dal 1 gennaio 2024 entra ufficialmente in funzione l'organismo pagatore Friuli Venezia Giulia, che prenderà progressivamente il posto di AGEA nei pagamenti delle varie provvidenze alle imprese agricole. Dico progressivamente perché nel primo periodo avrà, passatemi il termine, una sorta di sovranità limitata ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale, e poi progressivamente nei prossimi anni si occuperà anche dei pagamenti relativi all'OCM e ad altri pagamenti di misure nazionali eventualmente regionali. C'è da dire che proprio in questi giorni si stanno verificando i travasi di dati dei fascicoli aziendali da AGEA all'organismo pagatore Friuli Venezia Giulia, e quindi sostanzialmente siamo inattivi perché i sistemi informatici sono bloccati. Novità in vista anche per il settore vitivinicolo. Per il settore vitivinicolo, ecco, c'è una novità importante che preoccupa non poco le imprese agricole, l'amministrazione e i centri di assistenza agricola che sono in mezzo, e riguarda appunto lo schedario viticolo grafico. In pratica c'è un decreto ministeriale del 2022 che, in recepimento di norme comunitarie, prevedeva appunto la dismissione dello schedario viticolo, che attualmente è puramente alfanumerico, per trasformarlo in uno schedario totalmente grafico. Detto in altre parole, adesso l'unità di base dello schedario viticolo sono le unità vitate, che sono appunto legate alla chiave catastale, comune, foglio, particella, subalterno. In futuro saranno legati a poligoni grafici e quindi identificate su un ortofoto. Per quanto riguarda poi tutto il resto, tutti i vari bandi, tutti i vari pagamenti. Diciamo che nel 2024 sono già aperti e si apriranno numerosi bandi, soprattutto dello sviluppo rurale, tant'è che si attende che vengano messe sul piatto più o meno il 50% delle risorse dell'intera programmazione, che sono 227.000 euro, quindi quest'anno circa 100 milioni saranno messi a bando. Alcune misure sono già aperte per gli investimenti produttivi agricoli per la competitività e per l'irrigazione, nonché le misure a superficie, quindi biologico, misure agroambientali, piuttosto che indennità compensative in zone montane. Poi, a seguire, arriveranno bandi per quanto riguarda l'agriturismo e per quanto riguarda il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Accanto allo sviluppo rurale non dimentichiamo che ci sono anche le misure del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e c'è appunto un bando già aperto che riguarda l'ammodernamento delle macchine per l'agricoltura di precisione, in scadenza al 18 di marzo. Cit di Sant'Antonio, il maiale di Sant'Antonio, ricordi e considerazioni sociologiche in questa storia di Angelo Floramo. Sei proprio come il Purcì di Sant'Antonio, Quante volte ci siamo sentiti affibbiare questo bollo d'infamia? Noi ragazzotti erranti di un tempo andato, venuti su dentro all'orizzonte dei borghi di campagna, in cui abbiamo consumato la parte migliore della nostra gioventù randagia ed errabonda. Il rimprovero era bonario, non implicava nessun risvolto morale, ben lontano dalla reprimenda, assumeva piuttosto un colorito affettuoso, amicale. Per questo, anzi, veniva combinato con un mezzo sorriso stampigliato sulla faccia ed era accolto con la medesima espressione un po' arruffata, confusa, così tanto per simulare l'imbarazzo. Solo più tardi ne avremo compreso i significati profondi, tanto da configurarsi come una delle più alte espressioni dell'inclusività contadina, che sempre nasce laddove la miseria, quella che non deve mai essere confusa con la miserabilità, sa dividere quello che ha, per quanto poco, con chiunque bussi alla porta. Avremo così finalmente compreso, con la maturità che gli anni talvolta sanno regalare, che lo spirito del maialino di Sant'Antonio era quello che spingeva ad andare di casa in casa, elemosinando qua e là l'invito a fermarsi per cena, o più spesso a condividere la generosa ospitalità del momento, quella sana, domestica, la buona, quella che davanti all'ospite inatteso non si smentisce mai, approntando subito e alla meglio, senza falsi pudori, un tagliere di legno riempito da qualche crosta di formaggio, magari anche una coda di salame, l'immancabile taglio di vino, quello buono, spremuto dalle uve del pergolato. Delizia inattesa e quindi non sempre scontata, restava il piattino di polenta arrostita al momento sullo spolert, accompagnata da una ciotola di radicchio, quello mitologico, cul poc, sempre a portata di mano, da raccogliere alla bisogna nell'orto appena fuori dalla cucina. Così avremo capito che quel purcit era una meravigliosa invenzione della confraternita di Sant'Antonio Abate, di cui proprio oggi si celebra il giorno. Lasciato libero di gironzolare per il paese, veniva nutrito da chiunque ne avesse la possibilità. Pingue, grassottello, intoccabile, alla fine veniva sacrificato per sfamare i più poveri, quelli che non vivevano di altro che di carità. Nulla veniva sprecato. Consumate le carni, il grasso, benedetto nel nome del santo taumaturgo, era un toccasana per curare il fuoco che ne portava il nome, o per aggiustare slogature e stiramenti, come a dire il bene del corpo e la soddisfazione dell'anima. Seconda puntata oggi con il professore Raffaele Testolin, dedicata ai grani antichi. Dopo l'inquadramento generale fatto nella scorsa puntata, oggi ci parla delle proprietà di questi grani. Abbiamo detto che questi grani antichi producono poco e per essere così amati devono avere almeno qualità interessanti. Vediamole brevemente. Le componenti principali di farri e frumenti, la faccio semplice, sono gli amidi e le proteine che sono alla base dell'alimentazione umana. C'è poi da considerare la crusca che vedremo alla fine. L'amido rappresenta il 60% della cariocide di frumento. È presente in due forme, l'amilosio, una catena lineare di zuccheri, e l'amilopectina a catena ramificata. L'amilosio è di più lenta digestione e questo rappresenta un vantaggio perché ha un indice glicemico più basso, dato che il glucosio che si libera dalla degradazione degli amidi fa aumentare la glicemia nel sangue e, liberato più lentamente nel tempo, dà meno problemi. Grani antichi e grani moderni hanno al loro interno varietà con rapporti diversi tra amido e amilopectine. E chi ha problemi di diabete deve cercare farine o paste fatte con varietà a basso contenuto in amilopectine, indipendentemente dal fatto che queste farine siano fatte con grani antichi o moderni. Vediamo allora le proteine. Il contenuto può passare dal 12 al 16% con punte del 20% nel piccolo farro, come abbiamo visto la puntata scorsa. Più aumenta la percentuale di proteine e più la pasta, in linea del tutto generale, tiene la cottura e il pane lievita bene. E allora viva il piccolo farro che con il suo 20% di proteine svetta in testa alla classifica. Non è proprio così, perché non tutte le proteine hanno lo stesso valore. Quelle che danno elasticità alla farina e permettono la tenuta in cottura della pasta sono quelle del gruppo delle gluteine. Ora, il lato oscuro delle proteine del glutine, come dice Luigi Cattivelli nel suo libro Pane Nostro, è rappresentato dalle intolleranze e dalla celiachia. Tutto è legato alle decine di epitopi presenti nel genoma dei cereali che generano queste intolleranze. Il frumento tenero, quello che si usa per fare il pane, ne ha più di tutti. Il frumento duro, che si usa per fare la pasta, ne ha meno e il farro meno ancora. Allora verrebbe da dire avanti con il farro. No, perché ci sono epitopi ed epitopi e non è questione di quantità ma di sequenza del DNA di questi epitopi. Non c'è alcuna evidenza scientifica che dica che i grani antichi danno meno problemi di allergia e celiachia, mentre l'attività di incrocio e selezione, molto attiva anche in Italia, ha prodotto varietà moderne di frumento in cui sono stati eliminati molti epitopi che danno reazioni gravi. Insomma, la questione è più complessa di quanto la si voglia far credere. La scorsa puntata Vladimiro Tolisso per la rubrica dei sommelier ci aveva parlato dei passiti e oggi ritorna su questo tema parlando dei due passiti della nostra regione, il Picolit e il Ramandolo. Anche il Friuli ha il suo piccolo scrigno di vini passiti. Fin dalla seconda metà del Settecento, il Picolit fu uno dei prodotti più pregiati d'Europa, anche grazie ad alcune persone, Antonio Bartolini di Buttrio e Fabio Asquini di Fagagna, che con l'amico Antonio Zanon aveva iniziato a commercializzarlo in esclusiva a Venezia. Finì così per addolcire i pasti delle diverse case regnanti, Papa compreso. Il Picolit, vitigno autoctono del Friuli, si produce nella zona dei Colli Orientali e dal 2006 può vantare il riconoscimento della DOCG, la denominazione di origine controllata e garantita, che ne disciplina rigidamente le caratteristiche e la tecnica produttiva. L'uva non è particolarmente resistente alle malattie, matura a cavallo tra settembre e ottobre e i grappoli spesso hanno pochi acini a causa di una particolare conformazione dell'infiorescenza che non permette a tutti i fiori di fruttificare. Dalle rese basse i grappoli vengono fatti appassire attraverso la surmaturazione o l'appassimento sui graticci. È un vino stupendo, ottimo, abbinato con formaggi, specie quelli arborinati, ma anche fegato d'oca, ostriche e perché no il raffinato caviale. Prodotto in una zona ancora più limitata è l'altro grande passito friulano, il Ramandolo, vino ottenuto unicamente da uve di Verduzzo Friulano del biotipo giallo. Nel 2001 è stato il primo vino della regione a ottenere il riconoscimento della DOCG. Adatto alla vendemmia tardiva, ama abitare la collina dove matura verso la fine di settembre, ma spesso viene lasciato in pianta più a lungo. Il vino che se ne ottiene ha in bocca una leggera sensazione tannica di astringenza che dona un perfetto equilibrio a un sorso ricco di zuccheri. Anche il re dei salumi, Sua Maestà il Salame, ha bisogno di una serie di fini accorgimenti per la sua conservazione ottimale, come ci dice Michela Urbano. Tra le varie metodologie casalinghe di conservazione degli alimenti, non posso sottrarmi dal menzionare i salumi. La pena equivarrebbe all'essere esiliata dalla cantina di alcuni amici all'ascolto. In realtà, questo è un argomento piuttosto complesso, perché ogni tipologia di salume o insaccato richiede una specifica conservazione, atta ad evitare le alterazioni di natura microbiotica e l'ossidazione. Oggi mi limiterò a fornirvi alcuni suggerimenti specifici per la corretta conservazione del salame, distinguendo semplicemente il prodotto fresco da quello stagionato. Il salame fresco, dal sapore delicato, è preferibile consumarlo entro breve tempo. Più morbido e umido grazie a una percentuale maggiore di acqua al suo interno, è più suscettibile al deterioramento e alla formazione di muffe. Può essere conservato intero, appeso in un luogo ventilato, lontano da fonti di calore e umidità eccessiva, ma se non si dispone di una cantina, è possibile conservarlo anche in frigorifero. In tal caso è importante coprirlo con un panno di cotone o di lino per impedire che assorba gli odori provenienti dagli altri alimenti. Il salame stagionato invece ha una stabilità e resistenza maggiore alla conservazione grazie alla sua bassa percentuale di acqua, che gli dona una consistenza soda e un sapore maggiormente accentuato. Per conservarlo al meglio, la cantina è la soluzione migliore, mantenendolo pulito e assicurandoci che non vi siano alterazioni dell'odore e proliferazioni di muffe pericolose. Anche in questo caso la conservazione in frigorifero risulta una valida alternativa. Nel momento in cui si procede al taglio, è importante seguire alcune semplici regole per evitare rischi e inutili sprechi. Per prima cosa, affettiamo solamente ciò che intendiamo consumare. Per entrambe le tipologie di insaccato, il frigorifero è il luogo ideale dove conservare il salame una volta affettato. Ricordiamoci però di rispettare le differenze tempistiche di deperibilità: alcuni giorni per quello fresco, un paio di settimane al massimo per quello stagionato. A causa dell'ossidazione, la parte sezionata subirà un'alterazione cromatica e gustativa, pertanto è indispensabile isolarla dall'aria. Un tempo era usanza ungere la parte interessata con dell'olio. Gli esperti oggi suggeriscono di isolare bene con della pellicola alimentare a contatto. Un'ottima soluzione è di preservare sotto vuoto l'intero salame. Oggi Alessandro Squizzato, nella sua rubrica dei fiori, ha un ospite, Stefano De Cecco, un collega dell'Università di Udine che si è occupato di substrati sperimentali nella coltivazione del ciclamino e della stella di Natale. La mia tesi sperimentale riguarda l'impiego di substrati innovativi sul ciclamino e la poinsettia, anche conosciuta con il nome comune di stella di Natale. L'oggetto di studio di questa sperimentazione sono i substrati di coltivazione. Il substrato di coltivazione è formato da componenti organiche e da componenti inorganiche. La componente organica più utilizzata in un substrato professionale è la torba, grazie alle sue ottime caratteristiche chimiche e fisiche che vengono mantenute nel tempo, e grazie a una dotazione minerale scarsa, che a primo impatto potrebbe sembrare uno svantaggio, ma in realtà è una cosa positiva, in quanto mi permette di aggiungere gli elementi nutritivi effettivamente disponibili per la coltura da coltivare. La torba presente in un substrato si divide in torba chiara, cioè una torba poco decomposta presente negli strati superficiali di una torbiera, e in torba scura, cioè la parte più decomposta, dove le strutture vegetali non sono più riconoscibili. Lo scopo della prova consisteva nel vedere come le due specie floricole, il ciclamino e la poinsettia, rispondevano al variare del substrato utilizzato. Al posto della componente organica più usata, ovvero la torba, è stata sostituita in parte da altre matrici organiche, come le fibre di legno, tra cui le fibre di conifere e le fibre di castagno. Questa prova ha messo in luce una possibile diminuzione dell'uso della torba, con risultati positivi sia con l'uso di fibra di conifere, ma soprattutto con l'uso di fibra di castagno, nella quale, oltre ad aver ottenuto una buona risposta produttiva e qualitativa delle piante, è anche una matrice organica presente nel nostro paese. Ho scelto questa sperimentazione in quanto al centro delle argomentazioni di alcune politiche europee c'è proprio la torba. Sebbene la torba presenti molteplici caratteristiche fisiche e chimiche, ideali per la maggior parte delle colture in vaso, si sta cercando di ridurre il suo utilizzo. Questo a causa della lontananza tra il sito di origine e il mercato finale di impiego, e per ridurre l'impatto ambientale e i cambiamenti climatici, scegliendo componenti organiche alternative. Questa prova è stata svolta in un'azienda del territorio scegliendo il ciclamino e la poinsettia in quanto rappresentano un'importanza molto significativa sul mercato a livello regionale, cercando così di poter rendere più sostenibili le coltivazioni di queste colture, anche per i produttori locali in regione. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cereali agricole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine. dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,80 e 20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,90 e 20,40, l'orzo peso specifico 62,65 tra 20 e 50 e la soia tra 44,50 e 45 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 11,50 euro il quintale e la soia di 9,20. Scarse le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi moderatamente in ribasso dovute alle pessime condizioni meteo. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate da 1,20 a 1,50 euro al chilo IVA esclusa, i finocchi da 1,50 a 1,80, la scalora riccia e gli spinaci tra 2,80 a 3 euro, i cavoli tra 1,60 a 3 euro, il richiolo sottondo e quello di Treviso precoce da 1,60 a 2 euro, i carciofi violetti da 0,80 a 1 euro, le mamme romane tra 1,50 a 1,80, le arance da 1 a 2 euro e le clementine italiane da 1 a 1,80. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo poco favorevoli, l'attività segna il passo e i prezzi sono in leggera flessione. Alla cooperativa pescatori San Vito di Milano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli e medi grandi sono da 10 a 26 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 7 a 18, le sogliole da 7 a 24, le canocce da 4 a 12, le passere da 10 a 14. Mazzancolle da 13 a 20, le capesante da 18 a 20, le seppie da 6 a 11, i calamari da 13 a 19 e i moscardini o folpi da 6 a 13. Le uova oltre i 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. La settimana che si è appena chiusa è stata caratterizzata da variabilità del tempo meteorologico. Da un lunedì con cielo nuvoloso siamo passati infatti a un martedì con cielo sereno e aria secca, che ha portato a gelate diffuse in pianura con minime attorno ai -3-1 gradi. Mercoledì e giovedì sono state due giornate con cielo coperto, atmosfera umida e piogge diffuse sulla regione in genere moderate. Tuttavia, l'episodio più interessante della settimana a livello meteorologico è stato sicuramente quello di venerdì, che ha visto nevicate su tutta la zona montana fino a 200 metri, con cumulate anche di 20 cm in quote nel Tarvisiano. La neve ha interessato anche il Carso dopo quasi 3 anni. Infatti era ad aprile 2021 che non si verificavano nevicate fino a 250 metri circa in questa zona. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, lunedì mattina avremo cielo poco nuvoloso e l'avvicinamento di un anticiclone porterà lo zero termico fino a 3.000 metri. Dal pomeriggio invece aumenterà la nuvolosità dovuta al veloce passaggio di una saccatura, che farà ridiscendere velocemente lo zero termico fino a 1.000 metri. Nella notte tra lunedì e martedì potremo quindi avere delle deboli precipitazioni sparse sulla regione e non si esclude che le nevicate, molto deboli, possano raggiungere i 200-300 metri circa. Da martedì la situazione meteorologica sarà governata dall'avvicinamento verso l'Europa dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà stabilità e probabilmente assenza di precipitazioni almeno fino al prossimo fine settimana. Martedì quindi una giornata con cielo poco nuvoloso e ancora qualche gelata sulla pianura. Con mercoledì invece l'aria calda dell'anticiclone porterà temperature sopra la media in quota e alla formazione di inversioni termiche che parzialmente favoriranno il ristagno di umidità. In seguito le temperature medie tenderanno a rimanere sopra la media. La tendenza dalla metà della prossima settimana per ora rimane ancora incerta e perciò raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Sant'Agnese, interi e la baffe, miege la mede, miece il pan di famee, ovvero per Sant'Agnese il 21 gennaio la baffa di lardo è ancora intera, il maiale è stato macellato da poco, ma le scorte di fieno per l'inverno sono già dimezzate, come il pane per la famiglia, in quanto si è lontani dal vecchio e dal nuovo raccolto. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?